se si è preparato sul gossipon, ma avrà un corazon. Buongiorno Luigi. È una mazurka questa? Mi sbaglio, un valzer? Oh, che cos'è? Perché mi pare che si chiami valzer della pensione. Sarà la canzone. Un valzer. Ecco qua, balliamocela allora, che meglio. Deriva dalla decisione della Corte Costituzionale di sbloccare il blocco delle perequazioni, bla bla bla. Dei veri e propri gatti di mare. Questa? Se uno sta lì, insomma, stravaccato a prendere il sole sul balcone e cade dalla sdraio, Nicoletta, potrebbe teoricamente, anche se non è esattamente un lavoro domestico quello, quindi l'assicurazione è un'attività. L'INAIL però, potrebbe avere qualcosa, no? Da ridire. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatore. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È primavera, svegliatevi bambine. Sarebbe il caso di dire svegliatevi contribuenti, la primavera è ormai inoltrata, bisogna svegliarsi, come dice la canzone, anche per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, cara mia Nicoletta. Cominciamo già in salita la settimana. Per molti quest'anno, lo sapete, la dichiarazione dei redditi può essere precompilata, lo abbiamo già detto ed anticipato in tante puntate. Dal 15 aprile l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, per chi lo vuole utilizzare, il modello precompilato, una novità che riguarda circa 20 milioni di contribuenti che dal 2 maggio hanno già potuto mettere mano sul proprio 730 online. Sembra che l'abbiano fatto circa 200.000 persone, mentre più di 900.000 l'hanno visualizzato. Per cui questo già è un numero che un pochino schiaffeggia tutti i detrattori di questo nuovo sistema. 800 24 00 24, noi oggi torniamo, anche grazie alle vostre domande, a dare spazio a questo tema, a darvi la possibilità di rivolgere ai nostri esperti le vostre domande, perché vogliamo fare il punto sulle prime criticità che comunque sono emerse, stanno emergendo, le prime cose che non funzionano, quindi dati sbagliati, erroneamente trasmessi, qualche cosa che non torna, insomma i punti deboli. Inei di questo sistema potrei anche chiamarli, che ne dici? E faresti molto bene, mi dai uno splendido assist. E, infatti noi nella seconda parte della trasmissione parliamo proprio di nei. Chi non ne ha? Li conosciamo tutti, immagino, no? Sono macchie o rilievi della pelle molto comuni, possono essere presenti dalla nascita oppure comparire in seguito, variare per forma, colore, modificarsi nel tempo, scomparire, arrossarsi, ma non tutti i nei sono benigni. Alcuni, lo sappiamo, possono essere pericolosi, solo l'esame istologico che si effettua in seguito all'asportazione del nebo sospetto può dare il verdetto, ma dato che noi siamo i primi guardiani della nostra pelle, oggi vogliamo raccogliere tutte le informazioni necessarie per guardare i nostri nei con un altro occhio. Allora 800 24 00 24, il nostro numero verde a vostra disposizione, diteci da quando non fate un controllo dei vostri nei. A, B, C, D, E sono le prime lettere dell'alfabeto, ma vi dicono qualcosa di più in fatto di nei? Allora cominciate a scriverci anche i vostri messaggi e a prenotare i vostri interventi. A partire dalle 11.45 perlustreremo la nostra pelle palmo a palmo, neo a neo. Senti Peter, voglio farti una domanda. Una tua ex ragazza ti telefona all'improvviso la vigilia di Natale. Tu che faresti? Ad un tratto hai problemi a trovare una donna? Certo. Lasciala nel passato. Le vecchie fiamme sono come le vecchie dichiarazioni dei redditi. Le metti in fila nell'armadio per 3 anni e poi te ne liberi. Altro che armadio qua, perché ormai le dichiarazioni dei redditi perdono consistenza e per molti saranno solo online, ma questo non vuol dire che non si debbano conservare tutti i documenti nei propri cassetti di casa, basterà magari l'ormai ribattezzato cassetto fiscale. È così Giovanni Parente, il Sole 24 Ore, che torna oggi ad essere collegato con noi dagli studi di Roma. Giovanni, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi, sì, da quest'anno parte 730 precompilato, come avete giustamente detto, e ci sono sono una serie di vantaggi, ma anche una serie di incognite legate a, chiaramente al debutto, al primo anno di debutto che oggi raccontiamo sul Sole 24 Ore. Il grande vantaggio sono sicuramente per chi fa da sé e accetta il contenuto della dichiarazione preparata dal fisco, di sapere che non dovrà in qualche modo poi rischiare dei controlli, i controlli documentali, appunto quelli che in qualche modo il fisco effettua a distanza anche di tempo per verificare che ci sia un riscontro tra il dato indicato in dichiarazione e il supporto fisico che in qualche modo dimostra l'avvenuto sostenimento di quella spesa che dà diritto a una detrazione o una deduzione. Allora, 80024, grazie Giovanni, 0024 è il numero verde per i nostri ascoltatori. Volevo subito precisare una cosa a Lionello che ci scrive, perché ci ha scritto un messaggio anche piuttosto articolato sulla nostra pagina Facebook, dove noi a nostra volta avevamo risposto spiegandogli che gli avremmo risposto questa mattina. In realtà Lionello, il suo caso è un pochino complicato sulla capienza di sua mamma come contribuente, le scriveremo in privato perché il suo argomento, appunto, posto con la sua domanda, non riguarda esattamente il 7.30 per compilato, però le risponderemo, appunto, ribadisco, in privato. Buongiorno anche a Paolo Conti, direttore generale CAF ACLI, benvenuto, anzi bentornato. Buongiorno a tutti voi. Eccoci qua, ci faccia subito, dottor Conti, un polso immediato, ci faccia un polso immediato, non vabbè, si dice. Vabbè, uguale, però come si capisce, dice, senta un po' il polso della situazione. Loro lo sentono racconti, tutti i giorni, ce lo ecco. Racconti, ecco, dal vostro punto di vista, come si è avviata questa nuova procedura? Qualche settimana fa abbiamo ospitato il suo collega Valeriano Cannepari, che aveva detto che tutto sommato le prime avvisaglie non erano poi così negative, il sistema stava tenendo. Sì, sono assolutamente d'accordo. Io credo che sia partito bene per come può partire una procedura che coinvolge 20 milioni di persone, cioè consideriamo i volumi, le masse che queste novità stanno interessando. C'è una grandissima curiosità. Sì. Grande aspettativa, noi abbiamo gli uffici pieni di persone che ci chiedono come poter operare o come poter dialogare in maniera più semplice col fisco, tenendo conto che poi l'operatività è una scelta del singolo contribuente, cioè è un po' come aver messo a disposizione un home banking da parte della banca tradizionale e propri correntisti. E certo, quindi diciamo abituarsi a questo nuovo procedimento non è semplice, tenendo anche conto che magari, come dire, tutto quello che riguarda l'operatività del nostro conto corrente più o meno possiamo avere familiarità sulle spese che facciamo, vedere i movimenti, il rapporto col fisco direi che è ad un scalino superiore in termini di conflittualità e complicazioni, ma ne parleremo. 800 24 00 24, tenete bene in mente come sempre il nostro numero verde per le vostre domande, ma se volete scriveteci anche al 349 238 6666 e andate anche ad animare le nostre pagine dei nostri social network, naturalmente accedendo dal sito di Radio 24. Qualche numero che è stato diramato proprio venerdì dall'Agenzia delle Entrate. Senti qua, qualcuno ne ha anticipato, Nicoletta. Sì. 920.000 contribuenti che hanno già visualizzato il proprio 730 online. Sono andati a farsi un giretto, insomma. Esatto, intanto per vedere come funziona, hanno fatto bene. Circa 229.000 che dalla tarda mattinata del 2 maggio, primo giorno utile per accettare, integrare o modificare la dichiarazione, hanno già operato sul proprio 730. Di questi, ho un numero precisissimo, 122.295 non hanno perso tempo e hanno subito cliccato sul tasto invia, perché la dichiarazione andava già bene così, quindi è stata confermata. Altri 106.700 circa l'hanno salvata, ma non ancora inviata, perché evidentemente ha bisogno di qualche modifica o di integrazione. Temporeggiatori. Ci sono stati due molto veloci. Hai visto uno di Cremona e l'altro uno di Bergamo. Esatto, che hanno inviato il proprio 7.30 precompilato solo dopo 19 minuti dal via libera. Non hanno vinto nulla però. Magari se ci chiamano stamattina. Vedi? Apriamo la libreria di Cuore e Denari. È proprio lì che volevo arrivare. Questo, appunto, dicevo, è il primo bilancio diramato venerdì scorso dall'Agenzia delle Entrate sull'operazione 7.30 precompilato. Qual è, Giovanni Parente, il bilancio che invece fa questa mattina il Sole 24 Ore sulle criticità, se dovessimo fare una graduatoria dei problemi più diffusi riscontrati fino a questo momento? Allora, proviamo a sintetizzarla. Sì. Dati relativi ai redditi, dati relativi agli immobili e i fabbricati, dati relativi alle detrazioni e deduzioni. In queste tre circostanze noi abbiamo ravvisato, ma lo abbiamo fatto in maniera grazie alle indicazioni che sono arrivate ai nostri lettori in questi giorni, perché noi abbiamo aperto una casella mail che è ilmiogiornale@ilsole24ore.com e poi, avendola riscontrata anche con gli addetti ai lavori, quindi i CAF e i professionisti abilitati all'invio dei 730, una serie di problematiche. È chiaro che si tratta di problematiche che in qualche modo in questo momento sono spot, cioè nel senso riguardano singoli contribuenti, non possiamo generalizzare e dire è in tutti i casi così, anche perché, come ricordava prima Conti, siamo nel debutto di un'operazione che anche per quest'anno porta un'etichetta sperimentale. Quindi è normale che bisogna un attimino rodarsi. Per quanto riguarda i redditi, ci sono alcune problematiche che riguardano o dati comunicati in maniera erronea dal sostituto d'imposta, o dati per cui c'è stato un travaso, per così dire, cioè praticamente un salto nella comunicazione nel momento in cui il dato appunto è stato inviato all'Agenzia delle Entrate. Perché ricordiamo, ne abbiamo parlato qualche mese fa, sì. Da quest'anno la certificazione unica che sostituisce il vecchio CUD non va soltanto al contribuente, ma è stata anche inviata all'Agenzia delle Entrate. Poi ci possono essere situazioni limite o di contribuenti che abbiano avuto più rapporti di lavoro, oppure abbiano avuto un rapporto di lavoro e nello stesso anno un reddito da pensione, oppure delle indennità di disoccupazione. In questi casi qualche problemino c'è stato sul raccordo anche nel calcolo nei giorni di lavoro dipendente di pensione e nel calcolo delle eventuali detrazioni da lavoro dipendente e per qualcuno anche sul bonus degli 80 certo. euro. Ecco, mi preme ribadirlo, sono comunque problemi singoli che sono stati portati alla nostra attenzione, non abbiamo statistiche che possono permetterci di dire penso che sono sbagliati tutti i dati, per esempio, di tutte le banche sugli interessi passivi, cioè ognuno ha un piccolo problema ma è legato alla propria situazione personale, quindi un trasferimento erroneo di dati alla banca dati appunto centrale dell'amministrazione fiscale che arrivano da altre banche dati naturalmente. Paolo Conti, torno da lei. Nel momento in cui i contribuenti visualizzano la propria dichiarazione dei redditi online, quindi ammettendo che vada tutto bene, hanno già provveduto a rinviarla di nuovo all'Agenzia delle Entrate, quindi visualizzazione e accettazione. Altri invece che devono fare o un'integrazione o una modifica di dati perché appunto riscontrano che alcuni dati siano sbagliati. È lì che intervengono i CAF, cioè in che maniera siete in questa fase interpellati dai contribuenti, perché come dire 730 precompilato presuppone che contribuente faccia tutto da sé, no? In realtà mi pare che i CAF sul territorio siano invece estremamente attivi anche nel seguire i contribuenti in questa nuova procedura. Sì, sì, assolutamente, come è giusto che sia. Sì, stiamo spiegando prima di tutto che cosa provano le persone all'interno della precompilata, perché forse questo è stato il dubbio più grande. Quest'anno le persone che hanno lavoro dipendente o pensione trovano appunto i dati della certificazione unica e per quanto riguarda la parte delle detrazioni e deduzioni trovano la parte collegata agli interessi passivi e alle polizze assicurative. Per esempio tanta gente viene ai nostri sportelli domandando perché non ci siano le spese mediche, ma perché appunto questo è un anno sperimentale e le spese mediche che sono le spese tipiche che coinvolgono oltre il 70% delle dichiarazioni dei redditi quest'anno ancora non sono presenti, pertanto devono essere inserite dal singolo contribuente provvedendo a una integrazione appunto della dichiarazione che non può essere dunque accettata così com'è. Le faccio subito una domanda sulla questione delle spese mediche, perché stamattina ci ha scritto a cuoredenari@radio24.it, così ricordiamo la nostra mail, perché anche quella è sempre molto affollata direi e la ricordiamo forse poco. Marco da Venezia ci aveva scritto: sto proprio ora modificando il 730 online, ho un dubbio su queste spese mediche, partendo dal presupposto che è chiaro che non ci sono nella precompilata, ma lui ci racconta, il CAF prende la somma, adesso aspetti che è trasmessa male questa notizia, sostanzialmente quello che chiede lui è: io ho una serie di scontrini e riporto queste cifre nella dichiarazione dei redditi, ma l'amministrazione fiscale come fa a controllare che siano spese giuste? Chi glielo dice? Come fa a controllare che l'importo sia corretto? Fanno un incrocio con la tessera sanitaria? Ma no, banalmente nello scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie c'è l'indicazione del nostro codice fiscale, no, dottor Conti? Sì, però in questo anno cosa è previsto? Che comunque il controllo documentale, quello di cui parlava Parente prima, viene fatto sempre in capo al contribuente, per cui il contribuente che trasmette da solo la propria dichiarazione dei redditi, dunque inserisce da solo le proprie spese, poi verrà verificato che da parte dell'Agenzia delle Entrate che quelle spese corrispondano al vero, dunque gli potrebbero chiedere di presentare all'Agenzia delle Entrate locale la documentazione collegata. Se invece passa attraverso un CAF, ecco, qui cambiano le cose, nel senso che è il CAF che deve dare la verifica delle spese all'Agenzia delle Entrate, pertanto nulla verrà poi più richiesto al contribuente se la vedrà direttamente il CAF con l'Agenzia delle Entrate per giustificare la correttezza delle spese. Chiarissimo. Così abbiamo risposto anche a Marco, vedi, da Milano, ha scritto anche lui sul che ci chiedeva appunto se consegnare tutto ad un CAF in caso di modifica oppure si invia in automatica, che cosa fare. Certo, approfitto per ricordare una banalità ai nostri ascoltatori che però in realtà non è tanto tenuta a mente: gli scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie sono su carta lucida che spesso scoloriscono, per cui magari no, Giovanni, quante volte l'abbiamo detto, facciamo una copia in carta normale perché almeno quella cifra, ecco, esatto, che sbiadisce. Allora, chi sentiamo invece per gli amici che ci seguono da casa? Allora, io andrei da Maria Beatrice, certo, che ci chiama da Como. Buongiorno Maria Beatrice, benvenuta e buona settimana. La settimana buongiorno, inizia con una donna, quindi inizia bene. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una delle poche persone, credo, entusiasta del fatto che finalmente si riesca a inviare un precompilato online aggirando i CAF, sui quali io purtroppo non ho una buona esperienza. Per motivi di privacy, per motivi di... insomma, io li ho sempre un po' odiati, se posso addirittura. Sì, addirittura. Ecco. Magari era quello a cui si è rivolta lei, che non era molto professionale, Maria Beatrice, ce ne sono migliaia sul territorio, oppure insomma ha più esperienze. Certo, per carità, parlo della mia esperienza. Comunque sono veramente contenta. Io il 5 maggio, dopo aver visualizzato varie volte, aver controllato, provato a inserire i dati, eccetera, il 5 maggio io e mio marito abbiamo spedito, proprio dato l'invio, ecco, al nostro 730. Certo. L'avete salutato e lui è partito sì, tranquillo, liscio come l'olio. Ho inserito le mie spese, quelle per il risparmio energetico, ho inserito tutto quello che dovevo inserire. È stato anche molto semplice perché ti guida per benino, ti dice in quali righe, in quale inserire le varie voci, anzi avevo omesso una piccola casella e non mi faceva il calcolo del... Glielo segnalava insomma che il percorso si era bloccato perché mancavano informazioni. Ecco, abbiamo fatto tutto, quindi io veramente ringrazio chi ha avuto quella brillantissima idea. Esatto. Grazie Maria Beatrice, io ritengo anche che magari in questo caso, non per sminuire il caso di Maria Beatrice, magari abbiamo di fronte a noi una dichiarazione dei redditi più o meno semplice, no? Poi ci sono chiaramente dei casi un po' più complessi che forse rendono meno semplice il percorso, come nel caso della nostra ascoltatrice da Como. Detto questo, Giovanni, però effettivamente i numeri parlano da sé. Non sono pochi quelli che abbiamo indicato prima, per cui l'Agenzia delle Entrate ha diffuso questo bilancio proprio venerdì scorso, no? Tutto sommato sta andando bene questa prova sperimentale. La telefonata che abbiamo appena ascoltato mi lascia pensare che c'è proprio voglia di fisco semplice in questo paese, quindi in qualche modo chi si trovava nelle condizioni, diciamo, sia di know-how sia nella possibilità di poterlo in qualche modo non dover integrare in maniera molto complicata, l'ha sfruttata al volo e quindi in qualche modo ha cercato di liberarsi di questo onere il prima possibile sfruttando l'assist che gli è stato dato dal fisco. Ricordiamo una cosa, cioè, è vero che le spese mediche non ci sono quest'anno, però dalla l'anno prossimo ci saranno, quindi in qualche modo ci attendiamo che l'anno prossimo debba diminuire gioco forza la percentuale di contribuenti che dovranno modificare o integrare il proprio 730 precompilato, quindi gradualmente si dovrebbe arrivare a un 730 precompilato molto più percompilato, scusate il gioco di parole, più completo ed arrivare appunto a una dichiarazione che rispecchi più fedelmente la posizione del singolo, certo, contribuente. Allora, Allora, sì, Nicoletta mi sta chiedendo che facciamo, sentiamo Roberto? No, io lo sentirei, come, me, come al solito mettiamo fieno in cascina. Dai. E poi dobbiamo fare due cose in realtà, dobbiamo salutare Giovanni Parente che deve lasciarci in questa prima parte. Giovanni, grazie. Grazie, grazie per essere stato con però noi. Però aspetta, una cosa puoi farla, c'è l'ebook legato all'uscita del Sole di stamattina, perché voi in prima pagina mettete la super inchiesta sulle criticità di questa prima fase del 730 precompilato, però c'è anche un codice magico da poter utilizzare. C'è il codice magico per chi legge L'Esperto Risponde e potrà accedere all'ebook che quest'oggi, cioè questa settimana, è interamente dedicato alle novità del 730. Quindi troverete tutte le risposte alle domande che vi state facendo e anche ora quelle che non vi state facendo ma vi farete nei prossimi giorni sul 730. Grazie Giovanni, intanto ciao. Sentiamo velocemente Roberto e poi gli rispondiamo con Paolo Conti nella seconda parte del programma. Roberto? Pronto? Buongiorno, velocissimo, grazie. Grazie. Velocissimo. Sì. Allora, prima di tutto, complimenti all'Agenzia delle Entrate, era una cosa che dovevano far mai da anni, ma il 730 precompilato è un'ottima idea. Il la signora Rossella fatto... Orlandi ci sarà molto grata stamattina, perché stiamo veramente, casualmente lo dico, non è che li stiamo scegliendo ad hoc. Ho fatto i primi giorni, ormai non me lo ricordo neanche più, l'ho già inviato, però sto facendo anche altri per mie figlie cose, e volevo far notare all'Agenzia delle Entrate che c'è un'incongruenza sugli interessi passivi, sui mutui. Cioè il sistema è ben fatto, però quando nei redditi fabbricati appare che c'è la titolarietà del bene diviso al 50%, il sistema dovrebbe impedire che possa scrivere come interessi passivi da detrarre per l'importo massimo di 2.000 euro. Mentre in pratica il sistema invece ti concede di inserire anche fino a 4.000. Grazie. Ma se l'immobile è intestato a 2, il massimo è 2.000. Roberto, prendiamo atto di quello che neo, il piccolo vedi? Neo che ha trovato, lo commentiamo con Paolo Conti dopo i mercati, a tra poco. Ma... Cuore e denari. Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre. Se avete dei nei non lanciate pietre, ma chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24. In questo weekend, come vi abbiamo segnalato nella nostra pagina, in occasione dell'Euromelanoma Day, la campagna europea di informazione, molti ambulatori hanno garantito visite gratuite, voi ne avete approfittato, chiamateci e diteci com'è andata. E se invece non avete colto questa occasione, qual è l'ultima volta che avete fatto un controllino? Beh, se non ve ne ricordate, segno che è passato tanto tempo. In ogni caso, sapete dire il fototipo a cui appartenete? Vi scottate facilmente o vi siete scottati in passato? Avete fatto molte lampade? 800 24 00 24, restate con noi. A partire dalle 11.45 ci occuperemo di quelle piccole macchioline che ciascuno di noi ha, in misura maggiore o minore, e che vanno controllate. A tra poco. Io stavo cercando te, tu sei il contabile! Sì, gliel'ho appena detto, sì. Tu te ne intendi di conti? Di bilanci, sì? Eh beh, certo, è il mio mestiere e non per dire sono anche parecchio bravo, sì. Perfetto! Io arrivo alla fine del mese e ho speso più di quello che ho guadagnato. E mi devi fare una tabella dove ci scrivi su quello che ho speso e quello che ho guadagnato. Noi ce ne intendiamo di conti, perché abbiamo Paolo Conti questa mattina, direttore generale CAF Acli, battutona dottor Conti, per renderle più gradevole. Certo. Gradevole il suo impegno di questa mattina con noi, perché dobbiamo qua rispondere a bruciapelo alle domande degli ascoltatori che ci arrivano. Allora, abbiamo avuto il caso di Roberto da Venezia sul tema dell'incongruenza che ha riscontrato sul 730 precompilato per quello che riguarda l'informazione detrazione passiva, detrazione degli interessi passivi appunto sui mutui. Ci aiuta a tradurre un po' il problema che ha trovato. È chiaro anche per i CAF? sì, no, non, nel senso che non è un'incongruenza, è possibile nel momento stesso in cui un fabbricato è cointestato al 50-50, come diceva l'ascoltatore, non è obbligatorio che il mutuo sia intestato a entrambi i soggetti, perché uno dei due può fare un'operazione che si chiama di datore di ipoteca nei confronti dell'altro, cioè consente alla banca di scrivere ipoteca anche sulla sua metà, con il mutuo tutto intestato a un unico soggetto. Questa è la cosa che si consiglia di fare, per esempio quando tra moglie e marito uno dei due non abbia reddito e di conseguenza non avrebbe la possibilità di poter portare in detrazione la spesa, in questo modo viene caricato tutto al soggetto che ha invece il reddito per poter detrarre la somma, e di conseguenza è corretto quello che scrive l'agenzia, dunque la possibilità di portare 4.000 euro in detrazione. Dottor Conti, allora nella così foga di partire subito con le risposte sulle criticità di questa operazione 730 precompilato, che è peraltro anche l'apertura questa mattina del Sole 24 Ore, che si occupa proprio delle insidie legate a questa novità comunque molto rilevante di quest'anno, ci siamo dimenticati magari di fare un po' l'ABC di questa iniziativa, e ne approfitto per prendere a spunto allora l'SMS di Pasquale da Brescia, che ci scrive: quali sono gli eventi di rito per la compilazione del 730 online, perché noi abbiamo dato questa cifra piuttosto corposa, 20 milioni di contribuenti potrebbero, e pensionati, quindi tra lavoratori e pensionati hanno questa opportunità, questa facoltà quest'anno. Dobbiamo dare qualche informazione in più, però ci aiuta? Certo. Sono tutti i lavoratori dipendenti e pensionati che avevano già presentato il modello 730, il modello unico l'anno passato, e che appunto hanno un datore di lavoro che ha trasmesso per loro, o un ente previdenziale che ha trasmesso per loro il modello CU, la certificazione unica, l'ex CUD quest'anno. Questa platea qui fa circa 20 milioni. Ecco, sono esclusi tutti i soggetti che sono titolari di partita IVA, e qualsiasi tipo di partita IVA sia, per cui sono esclusi per esempio le partite IVA agricole che sono utilizzate magari dai pensionati o dalle persone che hanno piccoli appezzamenti di terra per avere quei piccoli contributi comunitari o il gasolio agricolo. Ecco, dove c'è una partita IVA aperta, il modello precompilato non si è chiude. Presente, non è presente nella ma ci sono anche tante partite IVA dormienti cioè, molto spesso ce ne sono anche tante che qualcuno non sa di avere addirittura. Ah beh, qua insomma, altro che insidie del 730 precompilato. No, ma... ne abbiamo trovate tante, perché lo so. C'è stato... C'è insomma qualcuno che ritiene di poter fare questa dichiarazione dei redditi, invece non sa che se si è un lavoratore autonomo, appunto un libero professionista, in realtà bisogna andare esclusivamente col modello unico, giusto? Certo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sergio dalla provincia di Latina, benvenuto. Buongiorno a lei. Ci dica tutto. Volevo chiedere in merito appunto il quadro E relativo alla detrazione delle spese sanitarie, che non viene visualizzato sul 1730. Mi scusi, allora ci ribadisce il quadro E, prima che io me lo vada a cercare adesso sulle pagine del Sole 24 Ore, che cosa indica, che cosa riporta? Le spese sanitarie, la detrazione delle spese sanitarie, che non viene, che non c'è questo quadro E sul mio modello 730 per compilato. Ah, non lo trova? Com'è possibile? No. Mannaggia. Dottor Conti, è tanto difficile da trovare, adesso noi non abbiamo neanche un facsimile di 730 precompilato, ma dovrebbero essere tutti uguali. Lo porto sempre in tasca. No. Conti, lei che ce l'avrà sicuramente a portata di mano. Come mai non lo trova, Sergio? No, non trova non trova precompilato il quadro E, Sergio, perché appunto probabilmente dice ha delle spese mediche ma non le ha trovate all'interno, perché appunto quest'anno le spese mediche non sono inserite, per cui lui deve fare l'opzione di integrare, cioè c'è un segnino più, deve cliccarci sopra, a quel punto gli si apre la pagina e nell'E1, che è la casella dove vengono inserite le spese mediche, da lì iniziare a inserire il totale delle sue spese. Tra l'altro, facendo questo trasferimento autonomo di dati, se non mi ricordo male, Conti, tanto per chi magari non lo sapesse, se abbiamo uno scontrino di una farmacia non è che dobbiamo indicare tutto l'importo della spesa che abbiamo sostenuto in farmacia riportato sullo scontrino, ma sotto, vicino alla voce del nostro codice fiscale, c'è proprio l'ammontare della spesa che va trasferito, no, in dichiarazione dei redditi, quello che poi è oggetto della detrazione fiscale. Assolutamente sì, anche se no, questo è vero, però non per tutti i software che utilizzano le farmacie, perché purtroppo ci sono ancora tante farmacie che usano software che non fanno la distinzione, e di conseguenza bisogna andare rigo per rigo nello scontrino e vedere se è detraibile o meno. Purtroppo non c'è ancora omogeneità, ecco, speriamo che il 2015 sia anche un momento di grande omogeneità. Per portare omogeneità anche su queste cose su tutto il territorio nazionale. Velocissimo Gino da Genova, perché lo stesso, ritorniamo sulla questione delle spese mediche, ma abbiamo trovato un'altra insidia, come la chiama Il Sole. Gino, velocissimo, perché devo lasciare la linea Enei. Sì. Infatti io l'ho provato, e tra l'altro anche con un mio amico esperto mi diceva che ha sentito dire, non so se è vero, che c'è una falla nel sistema, che ai pensionati non si riesce a, come dire, a inserire le spese mediche. Addirittura una falla. Conti, sarà come per quello per i lavoratori, non si possono inserire, il modello è quello. No, si possono inserire, è che purtroppo si tratta di utilizzare un software che è abbastanza semplice, ti dico la verità, però comunque comporta un minimo di conoscenza, però sono inseribili, non le si trovano, ma bisogna aprire la pagina specifica, bisogna cliccare sulla parte relativa al quadro E, aprire il quadro E, a quel punto poter inserire le spese. È una delle domande tipiche che ci sono arrivate nei giorni degli sportelli, proprio non si trova il foglio, ma in realtà il foglio viene generato nel momento stesso in cui uno deve clicchi dove c'è il più e si apre la paginetta. Esattamente. Allora guardate, io adesso non è per portare acqua al nostro mulino, ma anche per questo le due pagine del Sole 24 Ore questa mattina sono molto chiare, c'è proprio un ABC degli errori che si possono trovare, delle incongruenze, come le abbiamo chiamate stamattina, delle modalità con cui poter risolvere questi problemi. Abbiamo ancora qualche giorno di tempo per modificare la nostra dichiarazione dei redditi, se scaricando il 730 online abbiamo trovato dei conti che non tornano, ma intanto il nostro Paolo Conti lo salutiamo e naturalmente come sempre ci aiuterà a microfoni spenti a risolvere i quesiti dei nostri ascoltatori. Grazie. Certamente. Buona giornata. Grazie molte. Buona giornata a voi. Eccoci qua, Nicoletta, ti servo sul piatto d'argento il resto della trasmissione, se vuoi. Allora, strade e poi di nuovo insieme. Certo. Intanto iniziamo a osservare la nostra pelle. Poi penseremo ad altro. Cuore e denari. Dalla pelle al cuore. E noi oggi proprio di pelle vogliamo parlare, anzi di nei. Possono essere presenti sin dalla nascita, comparire nel corso della vita, possono variare di dimensione, colore e aspetto. Come promesso, oggi perlustreremo la nostra pelle palmo a palmo, ad occhi. Quanti nei avete? Meno di 50? Più di 100? Nell'ultimo anno ne sono spuntati di nuovi. Questo è difficile scoprirlo, perché se non sono proprio evidenti come fai? E no? Sono siamo stati talmente mappati prima, come mi ha detto il dottor Di Pietro qualche tempo fa. O qualcuno si è modificato. Intanto 800 24 0024. Lei è alta, ben fatta, di una bellezza devastante, con una fronte spaziosa, begli occhi, piacevoli ciglia, il viso ovale con piccoli nei sulle guance, che altro non servono che esaltarne la bellezza. Il naso aquilino, la bocca sorridente, la pelle chiara e un seno che molte farebbero bene ad evitare il confronto. Così il poeta francese Despot ha descritto la figura della contessa du Barry, sottolineando, come avete sentito, i nei che aveva sulle guance, perché nel Settecento, Deborah, i nei erano un vero e proprio strumento di seduzione, no? Ce lo si facevano anche i nei posticci. Il mio primo abito di carnevale da damina contemplava in primo luogo che mi disegnassi un neo sulla faccia, dopo si pensava al vestito. Se no, che damina era. Certo. Comunque, adesso forse i nei non sono più proprio un segno di bellezza e di seduzione, ma una cosa certa, che aggiungono meno bellezza, vanno controllati. Il neo per noi, lo sappiamo, no? È una macchiolina, solitamente di color marrone scuro, ma ad osservarli con attenzione notiamo che non sono tutti uguali, perché possono essere piani in rilievo, più o meno scuri, piccoli o un pochino più grandini. Sono tutti nei, alcuni sono presenti dalla nascita, altri compaiono nel corso della vita, però l'invito è di osservarli con particolare attenzione, quindi per chi può vi diciamo, mettetevi davanti allo specchio e osservatevi. Ci impresta oggi il suo occhio clinico il dottor Giulio Tosti, che è tornato a trovarci, specialista in dermatologia all'Istituto Europeo di Oncologia. Buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno. Dottor Tosti, osservare è un verbo caro a voi dermatologi, ci aiuta e ci guida un po' ad analizzare i nostri nei, quelli che riusciamo a vedere, perché quelli dietro alla schiena diventa un po', no? Sulla schiena diventa un po' complicato. Può essere difficile. Noi dermatologi siamo proprio abituati a osservare sempre i nei, lo facciamo con molta attenzione, perché l'osservazione è un atto ovviamente di prevenzione, quindi di anticipazione di una diagnosi, quindi è un atto importantissimo, una grande responsabilità. Quello che vorrei anche sottolineare è che è importante anche che le persone osservino i loro nei, quindi è molto importante che tutti i soggetti facciano l'autocontrollo dei nei che hanno sul corpo, e una cosa importante potrebbe essere anche quella di farsi aiutare da un familiare oppure un amico, in maniera tale da fare questa cosa in maniera reciproca. Questo penso che sia un bell'atto di responsabilità e un atto utile a fare una prevenzione utile in questo momento. Adesso lo blindiamo qua e dopo la trasmissione ci facciamo dare una controllatina ai nei. 800 24 00 24 se volete parlarne con noi. Allora, siete riusciti a trovare uno specchio, altrimenti non vi preoccupate, perché potete scaricare poi la puntata in podcast e riascoltarvi con calma la regola dell'alfabeto che ci aiuta a osservarci. Ma ripassiamoli insieme, dottor Tosti. Sono infatti proprio le prime 5 lettere dell'alfabeto che ci possono aiutare a tenere d'occhio queste piccole macchioline della nostra pelle, che così definiamo generalmente i nei. Iniziamo dalla lettera A. A come asimmetria. A come asimmetria, quindi vuol dire che se tracciamo una linea verticale od orizzontale sul neo, dobbiamo praticamente verificare che le due porzioni delimitate siano simmetriche. Quando le lesioni sono dette asimmetriche, potrebbero costituire delle lesioni a rischio. Ovviamente non è così facile stabilire la asimmetria di una lesione, a volte soprattutto per lesioni piccole, e poi dobbiamo, diciamo, tener conto che non è l'unica regola da tenere in considerazione, perché la sola asimmetria non è sufficiente per poter categorizzare un neo e per poterlo distinguere da un melanoma. Quindi sono importanti anche le altre lettere dell'alfabeto. Infatti c'è B come bordi. I bordi sono importanti perché i bordi, diciamo, regolari, i bordi netti sono tipici di un neo e quindi di una lesione assolutamente benigna, mentre i bordi irregolari, frastagliati, a volte si dice a carta geografica oppure con delle spigolature, eccetera, possono invece essere a favore di una diagnosi un po' diversa, quindi di un neo con qualche atipia oppure di un melanoma. Andiamo alla lettera C, che sta per colore. Il colore generalmente per un neo è un colore unico, di solito è un colore che va dal marrone chiaro al marrone scuro o al nero, questo dipende da tanti fattori, tra cui il fototipo della persona, eccetera, e il colore generalmente è unico, e questo è molto importante perché è una delle caratteristiche che le persone, quando vengono anche in ambulatorio a fare la visita, tengono maggiormente in considerazione. Quindi il colore è una variabile che è molto facilmente osservata anche dalle persone che non si occupano di nei, e quindi è importante che il colore sia unico. Quando il colore è un colore duplice oppure sono presenti più tinte dello stesso colore, più tonalità, potrebbe essere un segno di pericolo. E andiamo alle dimensioni con la lettera D. I nei di solito sono piccoli, ma ci sono dei nei che crescono, nei che sono abbastanza importanti, ben visibili. Certo. Che cosa ci dicono le dimensioni di un neo? Certo, è una regola importante, anche se in qualche modo viene messa più in discussione attualmente, perché con le tecniche diagnostiche più evolute, con la nostra capacità diagnostica, siamo sempre in grado di riconoscere dei melanomi, quindi dei tumori maligni che possono, no, derivare dal neo preesistente e che sono di dimensioni molto piccole, quindi anche di pochi millimetri. Quindi questa è una regola che ha un valore molto indicativo. Normalmente si ritiene che sotto i 5-6 mm la lesione possa essere benigna, al di sopra dei 6 mm bisogna porre maggiore attenzione. Però ecco, da prendere un pochino con cautela. È una lettera che insomma sta rischiando di essere messa un po' in cantina. Esatto, ecco. Esatto. Invece l'evoluzione, quando voi dermatologi dite mi raccomando tenete sotto controllo i nei, vedete se cambiano, se qualche cosa si trasforma, questa lettera, la E di evoluzione, è ancora una lettera, un'indicazione importante che ci deve guidare. È un'indicazione fondamentale, perché quando una lesione in qualche modo evolve, quindi cambia di simmetria, bordo, colore, e distribuzione della pigmentazione all'interno, dimensione, può essere una lesione pericolosa. E poi un'osservazione, evoluzione è effettivamente la quinta regola, no, di questo, di, delle prime cinque lettere, sì, dell'alfabeto, ma noi dermatologi diciamo anche che E può stare per elevazione, ossia quando una lesione piana tende ad un certo punto a venire fuori maggiormente sul piano cutaneo, e quindi il fatto che una lesione papula possa diventare una lesione piana, possa diventare una papula, quindi una lesione un pochino rilevata. Quindi questo, dal neopiano, una macchiolina che avevamo sulla pelle, notiamo che è diventato un pochino più grosso e arriva in superficie, possiamo toccarlo. Esatto, questo è importante soprattutto se la lesione è recente, quindi la lesione recente che non era presente magari alcuni mesi, alcune settimane prima, e che tende in poco tempo a diventare palpabile, quindi appena rilevata sul piano cutaneo, deve essere prontamente verificata da un medico, da un dermatologo, perché questo potrebbe essere effettivamente una varietà anche maligna di melanoma. Allora, vi abbiamo dato tutte le indicazioni, la regola della alfabeto ce l'avete, il dottor Tosti ce l'ha spiegata per bene, il nostro numero verde è a vostra disposizione 800 24 00 24, subito dopo il GR spazio a tutte le vostre telefonate. Cuore e denari. Il melanoma scrive il suo messaggio sulla pelle con il suo inchiostro ed è lì, alla vista di tutti. Sfortunatamente alcuni vedono, ma non lo comprendono. Neville Davis. E noi cerchiamo invece di capire qualcosa, di cogliere questi messaggi che queste piccole macchioline ci possono dare. Ci aiuta la regola dell'alfabeto, ne abbiamo parlato con il dottor Giulio Tosti, che è qua in studio con noi, specialista in dermatologia all'Istituto Europeo di Oncologia. Tante le chiamate all'800 24 00 24. Intanto andiamo subito ad Angelo da Bologna e subito dopo a Sergio da Viterbo. Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve, salve, complimenti. Grazie per le ottime informazioni che date. Grazie Angelo, ci racconti. Dunque, allora, io ho un piccolo neo che a volte appare, a volte scompare sul labbro inferiore e sinistro, proprio a bordo labbro. Tanto che le mie figlie mi dicono oggi ce l'hai, domani no, come mai papà? Magari segna l'umore. Esatto, il termometro della giornata. Ma lei ha notato se compare o scompare, magari legato ad alcune condizioni? Oppure no, fa un po' di testa sua? Assolutamente no, assolutamente. Sentiamo. Non ho mai dato testa più di tanto. Allora, un bacio al neo, quindi il nostro amico Angelo da Bologna. Dottor Tosti, i nei sulle labbra sono considerati nei oppure sono lentiggini, vanno controllati? Nicoletta, i nei sulle labbra ci sono, però per quanto riguarda la domanda di Angelo, direi che forse, da come Angelo ha descritto l'evoluzione, potrebbe non trattarsi di un neo, ecco, potrebbe trattarsi per esempio di un piccolo emangioma, quindi una lesione di origine vascolare che tende magari a essere più o meno evidente, oppure potrebbe essere una piccola macula melanotica, quindi un qualcosa che potrebbe assomigliare in qualche modo a un neo ma non esserlo, e che a volte effettivamente ha un decorso di questo tipo, quindi che per esempio può diventare più visibile oppure meno visibile a seconda anche di fattori esterni, come per esempio l'esposizione alla luce del sole o altri fattori. Dottor Tosti, abbiamo parlato del neo sulle labbra. I nei noi pensiamo subito che sempre che si localizzino sulla pelle, in realtà potrebbero presentarsi anche sulla lama ungueale. Noi abbiamo dedicato, tra l'altro con una sua collega che conosce bene, con Sandra Lorenzi, una puntata intera alle unghie, È vero che però i nei, se si presentano sulla lama ungueale, vanno controllati con particolare attenzione? Proprio un posto un po' critico? Certo, è un posto critico, un posto anche difficile a volte per riconoscerli. E, di solito i nei si formano a livello della matrice dell'unghia, quindi della porzione che porta poi alla crescita della lamina ungueale, e si manifestano generalmente come delle macchioline longitudinali che percorrono l'unghia, ecco, e possono avere delle caratteristiche molto difficili per quanto riguarda la diagnosi, quindi vanno tenuti in molta considerazione, soprattutto se la macchiolina tende in qualche modo ad allargarsi oppure ad aumentare come diciamo intensità. Sono macchioline scure, perché diverse da quelle macchioline bianche che a volte compaiono sulla lama ungueale. Esatto, generalmente hanno una pigmentazione. La pigmentazione però può essere molto chiara anche, quindi può essere veramente molto difficile da riconoscere, però poi occhio, può diventare molto scura, quindi occhio anche ai nei sulle unghie. Allora, ci occuperemo naturalmente anche dei bambini, ci sono tante mamme, nonne che ci stanno scrivendo. Allora, però avevamo un appuntamento con Sergio. E direi l'ora di rispettarlo. Buongiorno siamo... Sergio. Buongiorno a tutti voi e complimenti. Grazie Sergio. Ci racconti? Io niente, un neo diciamo sul tetto nasale, lateralmente quasi all'altezza dell'occhio. Sì. Che quest'ultimo annetto è cresciuto parecchio, diciamo, è diventato quasi una palletta. Io ho fatto una visita dermatologica e mi è stato consigliato di asportarlo per poi fare un esame approfondito. Però siccome ho perso un pezzo prima del dottore, volevo sapere se c'era qualche soluzione alternativa per poter comunque verificare di cosa si tratta esattamente senza bisogno dell'asportazione. Grazie Sergio. Dottor Tosti, questa è una splendida domanda. Sì. C'è stato a lungo, si pensava che i nei, non i dermatologi naturalmente, ma noi comuni mortali, avevamo il timore che asportando il neo, no, potessero esserci dei problemi, soprattutto nel caso in cui questo neo fosse in realtà un melanoma, no? Non svegliare il can che dorme. In realtà i nei, quelli sospetti, vanno sempre, no, asportati e naturalmente esaminati. Ma Tosti. Esatto Nicoletta, i nei quando sono sospetti vanno eventualmente esaminati con tutti gli apparati diagnostici che noi abbiamo a disposizione, e quando viene formulata una diagnosi oppure quando non siamo sicuri della diagnosi, il neo può essere asportato, e il fatto di asportarlo non costituisce un rischio per la salute, a patto che il neo venga asportato chirurgicamente e possibilmente con dei margini in tessuto sano, e che poi venga fatto l'esame istologico. Questo è il discorso che normalmente si fa, che serve proprio a fare una prevenzione. Quindi asportato chirurgicamente, il che vuol dire non con laser o con altri strumenti, perché abbiamo bisogno, avete voi bisogno del neo per esaminarlo. Esatto, non va fatta una termoablazione con laser, non va bruciato con l'azoto, non va bruciato con la diatermocoagulazione, quindi la cosa migliore da fare è sempre quella di fare un'asportazione chirurgica. Ok. Il nostro ascoltatore ha un neo sospetto, ma ci sono persone che hanno dei nei che vogliono togliere perché magari antiestetici, no? Ecco. Oppure solo per timore, ma senza per timore, oppure che ti danno fastidio, magari sono sul viso, non ti piacciono, oppure magari no, a contatto con la spallina del reggiseno. Nella posizione dell'ascoltatore, magari per l'occhiale dà fastidio, no? Allora, anche in questo caso possiamo toglierli chirurgicamente. Anche solo per bellezza, per... Certo, è possibile. Per rispondere a Sergio, direi che Sergio ha parlato di un neo che è cresciuto nel tempo anche rapidamente, che ha acquisito delle dimensioni piuttosto grandi, che è stato diagnosticato come un neo a rischio, quindi consiglierei a Sergio di procedere ovviamente con la asportazione. Poi Sergio mi pare che abbia fatto un'altra domanda, se esistono delle metodiche diagnostiche per non eseguire d'amblée l'asportazione, quindi sicuramente esiste la dermatoscopia, in particolare la video dermatoscopia, che è una tecnica che consente di valutare delle caratteristiche microscopiche o epimicroscopiche a livello dei nei, e poi delle tecniche diagnostiche ancora più diciamo avanzate, raffinate, come la microscopia laser confocale, che sono tecniche utilizzate soltanto in alcuni centri di eccellenza e che consentono a volte di fare una diagnosi o comunque di orientare verso una diagnosi senza bisogno di asportare la lesione. Però se c'è un rischio, o comunque se c'è una diagnosi di dubbio, io penso che sia meglio affrontare una piccola biopsia e togliersi il dubbio. Andiamo, Deborah, dove vuoi andare? C'è una nonna. Andiamo forse da che... Anna, sì, sì, così almeno grazie alla sua richiesta accontentiamo anche quella che ci arriva da molti altri ascoltatori. Anna da Roma, benvenuta. Salve. Buongiorno. Prima di tutto complimenti per la trasmissione, sono una mamma, non sono una nonna. Non so perché ci siamo lanciate perché abbiamo letto diversi messaggi, l'ultimo messaggio era di una nonna e ci abbiamo fatto un incrocio. Anna, mamma. Sì, anche se in età avanzata, ecco. Allora, volevo fare questa domanda al dottore. Io e mio marito già asportato DNA di natura benigna, ora per mio figlio che ha 10 anni, quando devo iniziare a fare dei controlli un po' più specifici, che non siano solo quelli del medico o del pediatra? Buongiorno signora, diciamo che non c'è un'età giusta. Allora, io consiglio di solito appunto di far fare dei controlli al pediatra in giovane età, che insomma giovane età intendo prima dei 14 anni. Se il pediatra dovesse notare la presenza di caratteristiche atipiche a carico di uno o più elementi, di solito il pediatra è il primo specialista che manda molto volentieri i piccoli pazienti dal dermatologo per una valutazione. Se in questo caso il bimbo ha tanti nei, può essere utile andare dal dermatologo per fare una visita accurata. Per quanto riguarda la mappatura digitale, quello che molto spesso viene chiesto dai pazienti, sono un pochino più scettico sui bambini a quest'età, perché tutto sommato non credo che possa aiutare più di tanto, in quanto la mappatura digitale serve per vedere se ci sono delle caratteristiche che cambiano, ma i nei dei bambini a quell'età cambiano diciamo in maniera naturale, quindi è molto normale che i nei possano modificarsi, quindi secondo me la mappatura ha molto meno senso. Quindi per rispondere alla domanda della signora direi di andare da un dermatologo di fiducia, far valutare tutti i nei e poi seguire le indicazioni che il dermatologo dà, quindi con controlli periodici, una volta ogni anno, ogni due anni, eccetera. Se poi ci sono degli elementi particolari, allora quelli possono essere approfonditi, ovviamente. Dottor Tosti, ma dobbiamo controllare i nei, questo vale per tutto, ma ci sono alcune persone che devono controllarli con più attenzione e sottoporsi a questi controlli a tempi, a intervalli regolari. Vogliamo tracciarne l'identikit? Allora Nicoletta, sicuramente le persone che devono controllarsi di più sono le persone che hanno un alto rischio di poter sviluppare un melanoma. Chi è che fondamentalmente ha un rischio più elevato di sviluppare un melanoma? Allora innanzitutto chi ha già avuto precedentemente la diagnosi di melanoma o ha dei familiari di primo grado che sono stati affetti da melanoma. E poi le persone che hanno un elevato numero di nei, superiore a 50, soprattutto se questi nei sono di grandi dimensioni e sono clinicamente irregolari. E poi tutti i pazienti, tutte le persone sane che hanno un incarnato molto chiaro, quindi che hanno capelli rossi per esempio, che hanno occhi chiari, blu, la carnagione molto bianca, ecco sono i cosiddetti fototipi chiari. E il fatto di avere magari più caratteristiche assieme, quindi fototipo chiaro, presenza di molti nei clinicamente irregolari, ecco questo è sicuramente un soggetto che può essere un soggetto a rischio più elevato, quindi un soggetto che deve essere monitorato con maggiore attenzione dal dermatologo, con controlli più frequenti ed eventualmente anche con esami diciamo di secondo livello come la mappatura digitale. Dottor Tosti, tante volte parlando di pelle, diciamo che la pelle non dimentica e mi riferisco alle scottature. Ci sono delle persone che forse perché hanno un fototipo chiaro o forse perché hanno un'esposizione senza protezione un po' selvaggia, si scottano. Ecco, le scottature pregresse, quelle che la nostra pelle ha affrontato e superato, o comunque la facilità della pelle a scottarsi, possono in qualche modo essere considerate dei fattori di rischio? Li aggiungiamo nell'identikit della nostra persona che ha fototipo chiaro, che ha le lentiggini, gli occhi azzurri, i capelli biondi, la pelle chiara, genitori magari che hanno avuto, possiamo aggiungere anche, e quindi questo vale anche per chi non solo ha la pelle chiara, ma che si è scottato magari da ragazza, ti ricordi certo. Quando c'era questa l'abbronzatura, noi ne abbiamo l'ho già combinata questa, ecco. Mi mettevo una crema, il dottore adesso salterà sulla sedia e riderà mia cugina perché combinavamo questa cosa insieme, l'estratto di zanahoria, una crema arancione che arrivava dalla Spagna che ci faceva diventare fosforescenti, speriamo di non dover pagare le conseguenze di quelle scelte scellerate direi di oppure, gioventù oppure chi ha fatto tante le pellettini ecco, per l'abbronzatura. Ecco, brava, bel tema, ecco, anche questo. Anche questo è un tema che affronteremo. Sì. Insomma, facciamo un po'... pensiamo a come abbiamo trattato la nostra pelle e restituiamole quindi un po' di attenzione, che magari è proprio un controllo. Dottor Tosti. Certo, la pelle ha una memoria e il fatto di aver avuto delle ustioni o degli eritemi solari in età infantile, soprattutto prima dei 16 anni, è sicuramente un fattore di rischio. Quindi diciamo la presenza di molteplici esposizioni che hanno comportato un arrossamento importante della pelle, un'ustione vera e propria, rappresentano un fattore di rischio. Per quanto riguarda il lettino solare è un discorso molto complesso, perché i lettini solari hanno uno spettro di radiazioni che sono un po' diversi rispetto a quelli del sole, in quanto sono composte prevalentemente da raggi di tipo ultravioletto A, mentre il sole ovviamente ha una radiazione che è molto più composita. Ma quello che sappiamo è che sicuramente le lampade sono un fattore di rischio. Quindi ci sono tanti studi di questo tipo, tanti studi epidemiologici, tante diciamo esperienze cliniche epidemiologiche e di ricerca che hanno confermato che le lampade sono sicuramente un fattore di rischio. Vabbè, io mi sono messa 2 ore sul balcone ieri pomeriggio. Brava. Per bypassare la lampada preparatoria. Poi faremo una puntata che tutto dici? Con il sole, a piccole dosi, frequente, un po', giusto, lo facciamo, assaggi frequenti, sì, di sole. Andiamo a Raul dalla provincia di Vibo Valentia. Buongiorno. Buongiorno. Salve, io avevo una domanda specifica per il dottore. Sì. Io sono un fototipo molto chiaro, con capelli rossi. La mia domanda era relativa ai miei penduli, perché a parte che io sto riscontrando che col passare del tempo aumenta il numero di nei presenti sulla mia pelle, ma ho riscontrato anche diversi nei penduli che al tatto alle volte hanno anche un dolore. Fino ad oggi non ho fatto un controllo specifico, l'ho fatto sempre con un medico generico, ma avevo intenzione di farli controllare visto che questa comparsa è abbastanza recente. E niente, tutto qua, nient'altro. Volevo sapere che cosa comportano i nei penduli, se sono dei nei penduli oppure se... E se vanno controllati, grazie. E se vanno controllati. Tra l'altro i rossi stanno quasi sparendo, perché se ne vedono sempre meno in giro, i capelli rossi, leggevo uno studio, sono sempre più rari. Raul ha questi nei che sono praticamente molto... Lui li ha definiti penduli, quindi sono molto evidenti. Probabilmente Raul ha dei nei che si presentano come delle escrescenze sulla pelle, sono quei nei che noi chiamiamo nei papillomatosi o nei papillomatosi o nei intradermici, e direi che Raul dovrebbe sottoporsi a dei controlli regolari per questi nei, soprattutto in luce del fatto che ha detto che ha un fototipo chiaro, capelli rossi, quindi è una persona che potrebbe avere un certo rischio, soprattutto se questi nei sono numerosi. Ecco, se poi questi nei magari danno fastidio, dovessero costituire un problema da un punto di vista estetico. Per lo sport, così, allora in questo caso sicuramente si potrebbe procedere con l'asportazione chirurgica di alcuni di questi elementi, di questi nei. Allora ci scrive Simone: Deborah, le lampade non preparano per la spiaggia in quanto non fanno da fotoprotezione. Ringraziamo Simone, ma già Deborah lo sapeva, Simone. Vero? Sì, è certo. Era già preparata. 2 anni di cuore e denari qua, altrimenti che cosa stanno servendo? Io so tutto ormai sul 7:30. Allora, vi ricordo che oggi Sole 24 Ore, in collaborazione con la Fondazione Veronesi, presenta la collana Guida alla Salute, ovvero libri indispensabili per vivere bene a lungo. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Chiara Segre, biologa e supervisore scientifico della Fondazione Veronesi. Buongiorno, dottoressa Segre. Buongiorno a tutti. Allora, oggi il primo volume, il primo appuntamento è Stile di vita e prevenzione. Noi oggi abbiamo parlato col dottor Tosti proprio di prevenzione, perché l'osservazione della pelle è un atteggiamento preventivo. Dottoressa Segre, che cosa ci racconta? Ci faccia un po' un assaggio di questa collana. Beh, innanzitutto questa è una collana che è stata fortemente voluta da Fondazione Veronesi in collaborazione col Sole, proprio perché è nella missione di Fondazione quella non solo di sostenere la ricerca scientifica, ma di informare, fare la corretta informazione disponibile a tutti in modo semplice, in modo anche accattivante, oserei dire, sui temi della salute, che sono temi che riguardano tutti, sono molto complessi, molto difficili da trattare, spesso insomma siamo bombardati da informazioni non sempre corrette o non sempre complete, che possono proprio per questo non rivelarsi poi esatte. Quindi Questa è proprio la filosofia che ci ha guidato. I temi, come anticipavi, sono molteplici. Si parte con gli stili di vita e la prevenzione, che sono sicuramente la prima arma che abbiamo a disposizione per fare qualcosa di buono per noi stessi. Si parla di alimentazione, attenzione del fumo, anche di protezione della pelle. Nel primo volume ci sono dei capitoli dedicati. Quindi potete ripassare quello che abbiamo raccontato oggi, Repetita Jugend. Poi il volume successivo avrà tutta una parte dedicata al cibo, ovviamente, perché il cibo è una dimensione importantissima, sociale, medica e sociale. Quindi appunto, ogni lunedì a un euro oltre il prezzo del quotidiano, un libro che ci aiuta a stare bene e a vivere meglio. Grazie alla dottoressa Segre per essere stata con noi. Grazie a voi e buon lavoro. E anche al dottor Tosti ringraziamo. Rapidamente per Arianna su Facebook: la depilazione laser luce pulsata può essere pericolosa per i nei? Direi in linea di massima di no, cercando eventualmente di coprire con appositi dispositivi i nei che potrebbero in qualche modo essere colpiti dalla luce pulsata o dal laser. Dottor Tosti, grazie, lei deve tornare perché con lei vogliamo fare una puntata sole, amico nemico, come lo prendiamo, come ci proteggiamo, ce lo promette? Prometto, grazie Nicoletta, grazie Deborah. Buona giornata, grazie a voi. Buona giornata. E noi bianchette? Bianchelline, biancoline, e torniamo domani. Va bene. Buona giornata. Ciao ciao.